Anthony. Lamento pensando che... Hola, attenzione, dici, c'è qualcuno? Oh, Gianni. C'è più sale il cuore. Ah, è Lucrezio. Cos'era questa ferrata? Cos'era questo rumore lì? Non stai uscendo, si sente la voce bassa bassa e l'alternata a fondo. Controlla cosa ci può essere. Ma sei sicuro? Sicuro ci sono. Allora, praticamente questa alternata era talmente forte che la voce sentiva bassa, bassa, bassa. Ma adesso posso? Prova a parlare. No, siccome c'è il cavo... perché questo, come ti ho detto, è un mobile da scrivania. E dove c'è la tastiera nel piano, l'avevo chiuso un po', e c'è questo, il microfono si era messo un po' male, dai. Senta adesso. La radio non è chiara, sinceramente, è tutta cupa, tutta... è strana, non è chiara. Ma sei sicuro? Guarda lì, controlla lì, perché ma chi è sempre a 1,5, guarda vedere adesso che abbassa, ma chi è? Dal microfono invece. Prova. Fai un passaggio lungo, allontanati dal microfono. Sono alla solita distanza, già, 60 centimetri. Come stai parlando piano è chiaro. Tu invece quando parli in fretta rimane tipo satura. Allora basta ancora il macchinino, vedi un po', ma così mi raggio meno, così sento. Ma sei troppo basso, lui, se vedi come ti risucchia, è troppo lungo. Guarda adesso, 1, 2, 3. Oh, molla così che andava, adesso va bene. Che apparecchio stai usando? Allora era il macchinino troppo alto. Allora? Adesso va bene, la radio va bene. E poco fa facevo proprio un'alternata fortissima, ti tappava anche la voce. Probabilmente era lì il problema. Stava gare. Infatti ho pensato che fosse attaccato, ho detto magari perché attaccato. No, sto usando l'altro, il 44. No, adesso va benissimo, adesso è di lusso. Ti dirò che sì. Mi sembra che questo stia respirando male. E non stai respirando bene, no? L'aria sonda devi fare. Sì, ti rompo i coglioni, eh? E vai, può fumare. Io pure lo so, lì. Dopo che non se li prestano talavi, ma quale due? Allora sei tu che fai fuochi d'artificio, no? Quando ti arriva la roba. Allora, ti ho fatto la roba mia. Da un'altra volta verso le 5:15. Via. Sì, perché ci vedo anch'io. No, ho pensato che fosse arrivata la qualche partita di roba, perché quando scoppia i fuochi è così. Quanto io li sparo, spesso e volentieri. Catellino è coccomane, non è facciatore. Ma no. Pippa pure lui. Ciao Natalia, va. Oh, fai da bravo, da voi, che telefona la una. Coccomane. Avanti Luca, Pippa. Fai già. E se la ascolto. Intanto sto stampando così che c'è la macchina in funzione. Kappa, vabbè. Quando vuoi rientra, non c'è problema. Avanti, Lucrezia. Natali, riprendi. Dai, riprendete già che io sono in live su TikTok, dai. Ci sentiamo dopo magari, vi ascolto, eh. A dopo, ciao. Lasciali perdere, che si cagliarità. No, aspetta che noi abbiamo un gruppo e sta facendo un mezzo casino, aspetta. Che hanno mai? Ce n'era una che si scambiava per maschio e faceva la corte a questa qua, l'ha fatta innamorare. Internet è una giungla. Ah, lì ci sei, se no sto chiudendo, se non rispondo nessuno lo chiudo. No, già ci sono, è che c'avevo la televisione troppo alta e non sentivo manco io, che mia moglie è sorda. Compra gli Amplifon. può essere sorda, non è sarda, è sorda. Ablifo. Quello che ha di... Senti Taraia, questa qui. Cosa ha detto? No, che sta cazzando a fare, non si è capito. Perché ha schiacciato lì il microfono. Ha detto, sono io sordo. Lui dice. Oh, signor, queste donne. Luca, non è cuocuoma, né troioso a me, mi sa. È un brigantino, ecco. E anche brigantino, Adesso di apparati omologati in vendita, cosa c'è? Che me l'hanno chiesto l'amico che se lo vuole mettere fuori strada. E ce ne sono tanti, basta guardare su internet. Infatti, quello è bello. Perché mi ha detto, mi ha chiesto che tipo di apparecchio mi consigliava. Ha detto, guarda, se prendi la 48 non sbagli. La 48 è un apparecchio forte, è bello, funziona bene. Però lo rubo in casa, che se non guai. Isso sì, più di agoi, più dell'altro mondo. E Gigi se l'ha fatto fare tutti i capi schermati, non pigliava più colpi di nuda. Adesso manco se il capo era dietro, prendeva culo. Io ce l'avevo in macchina, pigliavo colpi in macchina io, avanti Rugonto. Tutta la mondezza veniva qui a Edu, era bellissimo, poi in trasmissione andava benissimo, ma in ricezione era tremendo. Capito, quando tornavo da Porto che passavo vicino alla latte dolce, abbattimento zero, non sentivo più nessuno. Eia, se sentivo in via Giovanni Pascoli, sentivo a Gio Maria io. Era un apparecchio del cavolo proprio. O abbattimento lo sentivo a Gio Maria. E quando parlava, non ti faceva l'abbattimento, capito? È un casino. Però il mio, quello che avevo io, pompava forte, arrivavo a tutte le parti, gatto da portatore già arrivavo anche io, cosa che da casa, da portatore, non riesco ad arrivare certe volte. E infatti, e anche il mio era nuovo, l'avevo comprato nuovo l'Alan 48 io. E non faceva quel difetto lì, troppi colpi pigliavo. Amadeus, prego! Infatti, già è meglio, come si chiama, quello che ti ha aggiustato tu. Quello lì va bene. Quale? Come si chiama? Se non mi viene in un uomo, ho avuto un lapsus. Gianni, questo come va, perché? Va bene. Vabbè, sono attaccato. L'hai attaccata adesso? Questo è il 48, vabbè, questo c'ha l'altro squelch. Guarda a vedere quanto è il segnale. Sì, con lo scala. Vabbè, no, sto ogni tanto accendo un apparato che ho in vendita, l'RM, per vedere se funziona. Ma quanto ne è dato adesso, l'ultimo scatto? No, il penultimo. Fai all'ultimo a vedere. Questo è l'ultimo. Eppure non sa, No, sono ottimi per quello questo. Adesso te lo metto in primo, va. Così in primo. Ma non bene tutte le maniere. Non mi dicono che sa, non ho capito il perché. No, questi no. Questo c'è anche il preamplificatore che funziona alla grande, tra l'altro. Chiara, metti uno, ma non lo vuole nessuno. E allora rimane qua. Aspetta, faccio la prova. Ecco qua, in quarta. Vabbè, l'amplificatore invece mi funziona al contrario. Quando metto il preamplificatore di antenna, si abbassa la radio. No, questo anche con lo scotch chiuso, fatto, lo apre come niente, sale a 8 il segnale. Con lo scotch chiuso. Guarda, vedete, qua c'è trifora, sono proprio 5 minuti. Sei saturo. Prova così, 1, 2, 3, 4. Perfetto. C'era uno, mi ha detto, siccome l'avevo messo in vendita, no? Col cose, con la linearezza. 747. Ma hai detto a vedere quanto ci andavo senza senza lineare, allora Gito, facciamo 300 senza lineare e 260 con lineare. Lui è meglio niente strana. Guarda adesso si satura. No, benissimo. Lo sai perché? Perché avevo troppi watt, la massa di watt, capito? Se no. Ma è quello lì, anche con 10 watt non va in saturazione. Guarda, io sono con 10 watt. 10 watt d'ingresso. E in quinta marcia. Ma dipende sempre da apparecchio che usi, capito? Dipende quanti watt li stai dando, però mi regolo questi, anche 20 watt vanno bene sempre. Cara via là. Ma è saturo, Luca, è saturo lo stesso. Quando gli date troppo ingresso se ne vanno in saturazione. Ma così non è possibile, sono saturo. Ci tiro di cui che sei saturo e non. Luca, credi a quello che ti dico io. Stai andando in saturazione con quel lineare lì. Gianni, da te? No, qua si è fatto un ingresso, ma non sa. Tu sei stato a morte già, quasi non incomprensibile. Ho lì fatto ingresso già, e quindi è stato per quello, perché sta pompando troppo. Qui siamo vicini, ci vuole un niente andare in saturazione, perché siamo troppo vicini. Guarda, adesso sono 5 watt di ingresso. Ma un passaggio più lungo a vedere. Aspetta, lo ecco così si capisce meglio. Guarda, 1, 2, 3, 5 watt di ingresso. E in quarta marcia. Però adesso non sei saturo. Poco fa invece di saturo. E allora sì, perché c'era troppo ingresso. Vai Gianni. Sì, adesso la prova. Intanto per provare. Chi non lo gratuare? Chi non lo gratuare? La so per provare. Se lo dai a me, non solo di salire, anche la radio mi sale, perché io posso abbassarlo fino a 2 watt questo, perché io sto usando 2 watt adesso, se lo metto con 2 watt un cavolo se ne va in saturazione, mi gioco quello che vuoi. Perché io non posso abbassarlo, sono col garage, figurati se lo posso abbassare. E mettila a 5 watt tu, o a 4, quello che è. E vedrà che non satura. Quindi, fatto che vince. Anche a 2, se puoi abbassare a 2. In quel momento noi non lo vediamo. 3 watt, da. E il più poco possibile d'ingresso gliele devi dare. Ma dacci una mano. Perché quelli non dovrebbero saturare. La pandemia. Non so, guarda adesso scendo sto. Sì che stai uscendo, è anche amplificata la radio. Ulteriore. È al minimo adesso, va. Ora. Ma va, non sei saturo. Ce l'ho quasi tutto chiuso il corso. Mi sta segnando. Ora, c'è più positivo il corso. E vedi? Cosa inciaffugliendi chi su Luca? Dimmi già. Perché non lo dici a quella persona che ti è stata l'antenna che ce l'ho. A quella persona che. Me l'ha chiesto anche da poco. Che c'è anche due alimentatori in arrivo già. Ti ho mandato la foto, vedi un po' se sono qualcuno. E che alimentatori sono Luca? Uno da 50 con gli strumenti e l'altro da 30 switching adesso con lo digitale. Aspetta. Uno da 50 cos'è? Switching stesso. Valeria. Aspetta. L'SV. Perché quelli digitali ne ho due io di quelli switching. Uno da 35 e uno da 30 ne ho. Mo li guardo. Ma sicuro sei che mi l'hai mandato? Io qua vedo un lineare. Aperto, chiuso, fatto, boom, va. Ma qua non mi hai mandato questo lungo, sbagliato, tu l'hai mandato anche di un altro. Aspetta, uno mandato natalizio. Ma questo è il 28 di... Già, mi ho fatto un carico fittizio, mi ho fatto da 250 watt. Esce di Lusavio. Adesso mi devo attaccare anche la ventola. Giorgino, tu dici... Ce l'hai autocostruito? Sì. Beh, è difficile da fare. E l'altro è il 55 SW, che ha due strumenti, è alto, largo, eccetera. Ma sì, Cingheo, anche quello sì, Cingheo, con Luca. Aspetta, vado a fare. Sai che fittizi, naggio a bagno d'olio, naggio a dissipatore. Uno me l'ho fatto io, l'ho misurato, tutto è di lusso veramente, l'ho anche controllato col nano VNA ed è di lusso veramente. E io quando li ho fatti, vabbè, li controllo con l'analizzatore, fa tutte le HF e anche le VHF. Allora, questo qua l'ho fatto sia a bagno d'olio che col dissipatore. Ah, io l'ho fatto col dissipatore, me l'ho costruito così perché mi serviva, che non ne avevo, capito? Allora il Bongo Burro Aventura hanno il dissipatore. Così raffredda anche meglio. Non c'è bisogno di ventola lì. Allora, aspetta, te lo mando a te. Io ne ho due di quegli switching, quegli strumenti, uno da 30 e uno da 35, e come il mio è, però è 50 ampere questo qui, là. Io ne ho due così, uno da 30 e uno da 35. Aspetta, mi mando anche a Gianni così. Ecco qua. Oh, io c'ho quello uguale al primo che ti ho mandato, uguale identico. E adesso appunto, siccome me ne sta arrivando un altro uguale, più quello là non me ne posso nulla. Asco, un 7003. A quanto si può trovare lì? 800 euro. C'è anche uno che sta a 700, mi sembra. Non so però se ha la modifica. La modifica per andare qua. Sì, io a tutti quelli che ho comprato, sia al 7003, al 991, a tutti quanti ho dovuto fare la modifica perché non ne avevo. Asco, tu li sai i collegamenti per attaccare l'MC60? Io ho gli schemi sia dell'MC60 che del 725, per attaccare la 725 l'MC60. Io l'avevo attaccato al 726, che è la versione dopo. Ma Natali, avevo chiesto dei controlli. Oh, ma Carruccio anda zia, lascia perdere, se vuoi un consiglio. Comunque adesso ti mando lo schema come collegare. Sì, perché io c'ho lo spezzone, il cavo suo non lo tocco, no? Capito. Eccole qua, ma adesso a te ti serve, sì, adesso ti mando. Ti faccio un disegno di come li devi collegare. Ma anche i canali ci vuoi mettere oppure non ti interessano quelli? No, i canali non mi interessano, mi interessa che funzioni e che arrivi l'alimentazione. Capito, dell'up down non mi interessa. Aspetta, prendo un foglio e ti faccio lo schema di collegamento. Io ho completo, come ti mi devo mandare? E più tanti che funziona l'MC60, ma se non va, lui sta dicendo che non va. È perché l'MC60 è meglio come microfono di questo che ho io, perché questo che ho io ogni tanto è tutto, mi va a chicciare, e ogni tanto sgancia la portante. La V508 è quello che ho io. Ah, io me lo sono venuto quello. E me l'MC60 60, ma anche dalla voce dipende, mi ha fatto 2060, se la voce non è per la quale già lo sai, magari con la tua voce arrivi di più. Può darsi, non lo so. Io non l'ho mai provato su 725. No, ok, non ne voglio più sapere. Oh, come ho Iaesu. Sono un'altra musica, non c'è nulla da fare. E per andare in 27 già vanno bene. Però non mi interessa più, né la 27 né nulla, non sto neanche più ascoltando da nessuna parte, e panno 20.000 che è nuovo è revisionato da poco, capito, se no mi avevo venduto Buruiccio. Ripeto, ce l'avevo, lo avevo attaccato, ma non spinge come questi, Natali Ui. Io avevo 726 nuovo, in scatolato, a conto lavoro, avevo fatto un lavoro per una persona che conosciamo, però non spinge, da, perché non c'è il compressore, capito? Ma il processore, diciamo così, è logico che non spinge come un Kindle, ma l'importante è che esca bene la radio, tanto io non lo uso in AM, lo uso in banda laterale e basta. È mio, bene va. Buonasera a tutti, auguri. Auguroni anche a te, avanti. Buonasera a tutti, buonasera. Qui è il re di Poco Torres, buonasera. Ciao Eugenio, il Gini. Buonasera a tutti, buonasera. KK, e allora come va? Come va? Tutto ok, tutto ok. Si lavora. Tutto bene, e quando si lavora va sempre bene, anche dopo la spesa. Ma non c'è problema, oramai siamo di qua. Eugenio, il tuo lavoro è quello, ma già rende, là, già c'è la soddisfazione. Vabbè, ma il tempo libero non te lo paga nessuno. Va bene, comunque, ciao, sei compagnia, lì. Mi sembra di aver sentito Natalino, io Natalino. E aspetta che aumento, se no magari non mi senti bene. Mettimi a ciò. E cos'è? Aspetta un attimo. Lei play. Lo sentivo anche prima. Sentivo bene anche prima. Poi c'è Natalino dopo. Break. Clipper è sottoscritto Gianni doppio room. Break. Io c'è stato un break, fatelo venire avanti. Cioè Eugenio, comunque ho aumentato un pochino perché c'avevo 2 watt, non so come mi stavi ascoltando. Avanti break. Buonasera a tutti, buonasera anche Eugenio, buonasera Natalino. Buonasera a tutti, Antonio da questa parte. Ciao Bobo, l'ho ben sentito, dai. Avanti, per chi vuoi. Cappa, Eugenio va a Porto Torres, buonasera. Buonasera a te, Antonio, mi sentite dopo tanto, buonasera. Ascoltate, vi volevo chiedere una cosa. Perché chi ha un portatile, anche un A38, da vendere? Io ce l'avevo, ma l'ho già venduto. Forse Luca ne ha uno, se non ce l'ha venduto, Luca. No, io non lo vendo già però. Ciao oggi, non so se mi sente. Sì, no, buonasera, grazie, ascolto, ascolto. Un portatile mi serve. Ma sapete di tu che chi ce l'ha anche altra in mente? Già, fa 8 sei qua Eugenio, mi stai arrivando 8. Già va bene, dai. No, io ce l'avevo e l'ho dato. Ne ho regalato 2. Se sentite qualcuno a me serve un portatile. Nel caso. KK, Eugenio, mi stai arrivando 8 a picchi di 9, mi stai arrivando qua. Già va bene, dai. E avete parlato in 2. Avanti. E Antonio, se vuoi vedere che dopo vedo io, ho detto che su internet ce n'è sempre in vendita, Eugenio. Ma volevo una cosa, siccome non è per me, è per un amico, volevo una cosa adatta da uno che conosco, capito? Che è più sicuro. Ho capito, vabbè, io non ne ho, sinceramente, non so cosa dirti. Vabbè, Antonio, mi stai dicendo? fa se vuole un controllo, Antun? Antun, riprendi Natalì. Ok, riprendi. Sto scrivendo. Aspetta, faccio uno schemino a Natalì. Boh, Antonio è scomparso. Antonio. Perché l'ho usato Antonio? Allora già, usami la cuccia. Con lo faccio grazie a Dio, per passare la peggio meglio così. Allora passate in compagnia, tutti insieme, là. Come si fa in famiglia. E poi niente, poi devi pagare le conseguenze perché mangi molto e ti viene mal di pancia, eccetera. Mi stavate chiamando, io ero un attimino che mi ha chiamato mia moglie. Vai Antonio, vedi quanto arrivi a Porto Torres. Guarda quanto arrivo a Porto Torres. Eugenio! Non ti sei. Come non mi sento, ma buffonendi sei. Sto scherzando. Qua arriva 8 o 9, a picchi di 9 arriva. Ma tu mi stavi dicendo cosa? Quanto arrivo a Porto Torres? Ciccia? Io, quando arrivo il segnale. 9? 7 e mezzo, dai, come modulo c'era l'ope. Vai andare. È uguale che all'incirca, come mi arrivi tu, mi stai arrivando all'incirca è così. Vai andare. E l'importante è sentirsi, dai, l'importante è sentirsi. Perché già mi arriva bene. Capo, vabbè. Ero da tanto che non attaccavo questo parecchio, oggi. L'ho attaccato adesso per farlo scaldare un po', perché ero da un mese che non l'ho attaccato. No, io per... sono sempre acceso. Il mio non si stacca mai. Dalla mattina presto fino alla sera quando vado a letto sempre acceso, perché magari sono un modulo perché sto lavorando, però sempre acceso. Fai bene, perché il gas che ho io, ma quando non lo stavo usando, poi sono andato a accenderlo e il frequenzimetro funzionava a metà, poi come l'ho usato non l'ha più fatto. Perché bisogna farli funzionare. Bisogna accenderli almeno, hai ragione tu, bisogna accenderli e farli scaldare un po', perché così si carica il condensatore. Solo che a volte non hai tempo, non c'è gente, cosa? E quindi cosa fai? Li hai lasciati accesi per sentire il QRM. Dobbiamo far ripopolare il cane 10, dobbiamo rientrare sulla 27, noi la vostra città ti vediamo a tutti, No, anche Mario è entrato l'altro giorno a farci gli auguri, Mario di Porto Torres, è entrato a farci gli auguri. Ah, è ancora qua, sì, ci sono ancora andato a Bologna. Perché andare a Bologna dove? Non so, cosa ho capito, l'intenzione forse di tornare a Bologna. Lì c'è la famiglia. Non lo so, mi ha detto che si era trasferito qua, poi adesso se magari ha cambiato idea, c'ha i figli lì, tutto grande. E so. Mario, ci sei, Mario? Quando sta entrando, vabbè, adesso lui facendo, essendo diventato rilevatore su altre frequenze, non c'è tra più... Già entrava poco prima, adesso che la relazione non ci trova più sulle 27. Ma non penso che lo usi molto la frequenza radioamatoriale. Da quanto ha detto lui, ci vuole un'antenna, ci vuole tutto, non è che... Ci vuole un bel di là. Molti da cadere da radioamatori non entrano in più, ma che senso ha? Se vi voglio fare una cacchierata normale... Il 27 perché non me la potrei fare? Vabbè. Non lo so, pensamenti un po' strani. Perché noi siamo inferiori. Ma cosa c'entra? No, non c'entra niente. Oh, ma Gio Fargero non avete più sentito. A chi? A Gio Claudio Fargero. No, magari che l'ascolto, ma non sa più entrare. Però non mi chiamano sempre. Sono per gli auguri. Basta telefonarli. E il mio amico abita la miele. C'è sempre, sì, dietro a sé. Chi? Cosa? Il carrozziere, come si chiama? Roberto, sì, è entrato da poco. Sì, Roberto Capito, Roberto Quadrato. Roberto Quadrato. Sì, ogni tanto entra, fa cucù e poi a volte sta anche la sera, tutta la sera. a volte da Roberto è diverso, Roberto entra ogni tanto. Va benissimo. Ma e poi che sia qua, che sia là, io non ne vedo questa differenza, capito? Io sto bene anche qua a farmi la chiacchierata, vedo che anche sui 40 metri, 45 metri, ci fanno i saluti come facciamo noi, parlano così, non cambia nulla, eh. Sì, vabbè, è normale, non cambia niente, non cambia niente. Per fare radioamatore secondo me devi conoscere bene le lingue, perché se no non fai nulla. Se ti capita una stazione estera non sai fare nulla. Invece quando conosci le lingue come Walter, come Marco eccetera, che sono bravi parlando l'inglese eccetera, allora sì che si possono destreggiare come radioamatori. Ma English very, very well, my friend. Cosa? Ma English very, very well, my friend. Ma loro sanno fare discorsi, non è solo a fare di Malawi, no? Loro parlano proprio, fare discorsi. Vabbè, io già mi arrangio, poi faccio capire, perché a bordo, insomma, lui bisogna sapere utilizzare l'inglese, soprattutto quando vengono le navi, quando vengono le navi turche, egiziane, che parlano proprio l'egiziano, parlano il francese. Il francese non riesco a parlare, qualcosa in inglese già riesco a dirle, a capire. Io invece il contrario, io parlo il francese e l'inglese un po' meno. Sì, ma perché ho avuto la base di inglese a scuola, hai capito? Ho avuto una buona base di inglese a scuola e niente, ho continuato. Con l'inglese, pure noi che andavamo in inglese, cazzo, io non comprendo nulla, cioè, meno male che abbiamo gli interpreti che sono stati, qualcuno è stato anche in Inghilterra con noi, che lavora da noi, poi ne capisce anche lui, il padrone, Alberto, a che non ne comprendo, cioè, sì, certe cose le capisco, ma non ne comprendo nulla, proprio, l'inglese. Allenare tutti i giorni, perché se tu non la ci stai, lo dimentichi. Cosa? Non ho capito. Se ci devi stare a contatto con gli inglesi, ci ritrovai tutti i giorni, perché poi se no lo dimentichi, capito? Lo so. Deve starci a contatto, perché se no non mi comprendi nulla. Cos'era questo fischio? Come fischio? Allora schiaccia e non parlare. No, adesso è l'alimentatore. Ma sta che avvento, no? Sì, è sotto proprio sotto il nobile, è anche chiuso. Ah, davvero? Sente poco si sente. Ma anche come tocchi il microfono, che fa clicchi crack quel microfono, capito? Ma clicchi crack fa? Sì, a seconda di come premi la cosa. Io ti amo il centro qua. Ragazzi, mi sono facciato lungoso, il piede da letto mi si è rotto, che Gesù, ho dovuto saldare poco fa. Bisogna andare in gatto. Sto scendendo, non ti mandavo in barabara a maggio, sto scendendo, sto di peso. Io l'ultima fotografia che ti ho visto avevo robustito anche di viso. Il peso a volte si quello fa. Poi se ti metti a flettere nel letto, c'è pesanti. Esci che prendo da stazione 2, va. Si cozza un poco, sono un po' stanco. Cazzo, sono giorni lavorando, mio. Ma anni fa a Cadoluguro, chi si ammazza di un rodone, per carità, guarda, e per non picchiare l'ultimo dell'anno, perché sennò qua mi sono incazzato come una belva, mi sono incazzato con la notte. Anche non ti è incazzato così, dopo magari per il principale si manda, non ti devi incazzare così. È lui che deve prendere gente che abbia la forza per fare quel lavoro, se non vai la butta non ne puoi fare il travaglio. Il problema è che noi non possiamo prendere nessuno, il problema è che ti devi affidare a questa ditta, ma ti mandano chi c'è di gente da zillire, ti mandano per carità, guarda la guerra, ho lavorato da Dio. Ma non è che abbiamo sollevato quei bauli di merda, no? Abbiamo sollevato bauli pesanti, ma pesanti davvero, perché c'è l'altro impianto che doveva imbarcare, è già arrivato su, perché il 2 doveva imbarcare la nave. Cavolo, ma pesanti davvero, pesanti pesanti. Cioè, c'era gente che sapeva lavorare, e no, che mi hanno mandato tutti gli si da circolo non hanno mandato, cioè non riuscivano a alzare un sub di merda, cioè piccolo da terra. Ti ho detto adesso ti faccio vedere io come si alza, l'ho preso con due mani così, uno scaraventato sopra, e ti hai visto come si fa? Ma tu sei Marco, cioè, ma se io lavoro, ma perché non devi poi cavolo ti chiamo, vieni alla regia che ne scendiamo le cose, proprio a mecciarmi, scusami, tu ti dici che proprio a mecciarmi, e devo chiamare, scusami, ma gli denari, figli sì o no? Qua la bambina mi ha fatto sclerare. Vedete che non ha va nulla, sono io. Lascia perdere, va. Ero crepato dal giorno prima, però ho lavorato lo stesso, ho lavorato a forza di inerzia. Perché ero solo, meno male sono venuti quelli delle luci che sono, cioè che hanno la manualità e tutto a aiutarmi. Avevo già smontato tutto e sono venuto a aiutarmi, perché ero disperato. Cazzo di oggi, devo ricordare che cosa pittura, amici. Veramente. Ma se c'è un bandita, se non andare a serve. C'è un benedetta, questa tragedia. Luca, Eugenio, Natalino. Sono qui. Riprenditela. Stavo guardando questo schema. Luca, ci sei? Aspetta che cambia stazione. Dove sarà? Da quella di sorso. Luca. Un attimo, un secondo. Eugenio, ammullando, riprendi tu Anto. Un attimo, sono al cellulare che mi ha chiamato un amico. Anto, riprendi. Via Gianni. Ui, ciao Antonio, auguri. Auguri a te. Sempre gatto a manettone, sì. E cioè manettone? A manettone, che lo sanno. Ma scusa, se mi confermi, donna, come te l'hai detto? Vabbè, va così. Lo vuoi dire. Ma se il motore della Ferrari va male, devi abbassarlo di giri. Non va male, fai da bravo, che mi ha detto anche Marino che è molto lontano, che arriva forte e bene. Ecco qua, stazione 2. Ciao Antonio, auguri anche a te. Ciao, auguri anche a te. Qual è la stazione 2? Aspetta di qua, di camera. Ah, ce l'hai diversi pusher? Sì, ho fatto l'impianto io. Ho capito. Quindi te la trasferisci da camera a camera? Allora, qua c'ho il portatile. C'ho il portatilino, metto tutto sotto, non si vede nulla. Quando non ci sono, non ne uso. Cioè, metto tutto dentro il comodino e non si vede nulla. Pomoletta! Beh, Luca! Ciao Luca, auguri! Ciao a tutti, auguri, auguri! Ciao Torino! Beh, Anto, mi senti? Sì che ti sento. Cappa, già ti sento Giallo. Ma è sparito. Ma che è sparito? È Luca, è sparito. Cappa, cappa, dai. Vabbè, dai, bianco per me che devo andare un attimino a fare una cosa. Ci sentiamo dopo, ok? Ok, Antonio. Cappa, cappa. Ciao, anche a Tatarino. Ciao tu. E allora già, cosa ci racconti? Io non ho niente da raccontare, tu già mi racconti. Che io sono stanco. Mangiato troppo queste feste, adesso devo fare la madame. No, non ho mangiato troppo. Ma non è anche se mangi poco in queste feste mangi sempre un bel, chi ce l'ha ragione, anche se mangi poco, gusti una cosa, gusti l'altra e mangi sempre un bel. Guarda, sono 3 chili di camperoni, ne ho assaggiato uno solo, perché a me non voglio camperone, non mi piace. Un'altra cosa sì, ma a me proprio il gamberone mi fa schifo. Io ho mangiato un gamberone che sembrava un'aragosta, ma mannù barone, belli veramente, vabbè. Questo amico ha un fornitore che lo fornisce, quindi si ha portato roba bella davvero. E il gamberone era enorme, non ne ho mai visto così, manco il carabinero se sono così. Ma io ho principalmente enormi, Gianni. Io sono andato da Lice, vado sempre da Lice io. Ma anche quello che c'è al monte, dietro via Sucis, in quella traversa, via Maronia mi pare che si chiama. Io vado da Lice, mi trovo con me. E c'è tutto il bene di Dio che vuoi. Anche le sedie che sono preso lì, di tordini, porco, di tutto. C'è una frizza piena, guarda. Ma niente, infatti oggi volevo farmi le sedie con i bisili, poi se no, ce l'hai pensato, mi faccio una bella fagiolata. Io invece le ho mangiate le cipi col piselli, le lenticchie con lo zampone, tutti gli cicosi, paccaridacchi, da bui, ui, lascia perdere, si fanno correre in bagno. No, io le ho mangiate, io che, tranquillo, veramente buoni, guarda, saporiti, ma te mi piace bene tutti io, due usci, guarda cena, dopo buoni, fatemi ancora in frizza, tu mi sa, domani, ai gamberoni? No, le semi con i piselli. Ah, io le ho mangiate a Capodanno. Le semi con i piselli. Quindi, vabbè, già mi sono trovato bene, dai. Andà bene, andà bene. Ma guarda, sono 3 chili di gamberoni, se tutti te ne sono mangiati, anche a me proprio non piace. Ma dici, no? Pranzo cena, lì, magna, se ti piace, magna di tutto. A me tanto mi piacciono. Non le voglio, magna le seppioline io con i bisilli. Poi c'è il progetto, vabbè, altra cosa. Ma intanto cambio, capito? Faccio anche i polpi, la gliata, troppo buono. A me il forcetto Torino mi si paga, io del forcetto mangio solo la testa e le zampe, la roba magra, perché il resto non mi piace, non... E quando è fatto bene la cottella, quando è croccante mi piace. Ma dirò che il forcetto è più leggero dell'agnello, io ho fatto anche l'agnello, ma sia il forno che il sugo, e dirò che il forcetto è molto molto più leggero, io è più pesante. Sono io qua. Ciao Eugenio. Buonasera, chi è? Torino, come vi compi? Torino, buonasera Torino. Come vi senti là in quelle zone? È basso, molto basso. Vedi, sono basso. E adesso di radio mi interessa a me, dai. E la radio è molto barattolosa, io ci sento proprio male da queste parti, Torino. Mi spiace. Sì, il segnale è 2, la radio è 2 lo stesso, faccio fatica a capirti. Beh, sto usando un portatilino, dai. Cosa hai detto già? Un portatilino. Un portatile sta usando. E allora già va bene. Ma voglia. Ma anche tu non esperi molto forte qua, Oggi. Santiago quasi 2. Andare, va benissimo. E la zona coperta da tettoni sicuramente, qua ho detto ripassantiamo con 9 e 5. No, qua è più, ho voluto mettere il volume per sentirlo. Sì, zona negativa da parte mia, dai. Ci deve essere qualcosa che vi copre uno con l'altro. Io sono buono per anche adesso, io anche non voglio sentire con l'altro addirittura, penso un po'. Però se è un portatile già, già sta andando bene, insomma. Riesco a capire così così, però arriva. Capo, 23 canali sto usando, dai. Già va bene. Cos'è, una 38? K. Vabbè, non lo prendi quello? No, negativo. Ma. Vabbè, avanti Antonio, ci sei? Antonio sei andato. Luca, Natalino, ci sei? Sì, che ci so. E prendi. E K, stavo leggendo questo schema, no? Capito. Perché devi stare attento all'alimentazione qua, perché si alimenta da solo. Quello non sbagliava, che se non ti fa sbattere tutto. guarda bene com'è. Comunque, magari con la tua voce rende. Non c'è, se no che c'è una patata in bocca, c'è una resa molto diversa tu, eh. Vabbè, non fa niente, non ti preoccupare. Ma non c'è il sottomicrofono? Che cosa? Portato con la sua antenna o collegato all'antenna di fuori? Aspetta, non ce l'hai il sottomicrofono che sono in prima già? Patata in bocca, bu. Ma ho detto, sei usato un altro microfono? Sta leggendo Gino. Ho detto, stai usando il portatile con la sua antenna o collegato all'antenna di fuori? No, collegato un'altra antenna. Io controllo a cosa corrispondono i colori dello spinotto che va attaccato all'MC60 e così mi segno i colori e mi faccio lo schema, no? Scappa Natali, da te come sta arrivando Natali di radio? È benito quello, perché volevo basso già? Quello basso, è cosa, Eugenio? Ma non penso che arrivi basso, a me mi arrivano V5. No, arriva basso, Eugenio, mi senti? Ciao, Luca Ranicone di Sassari, quello che canta la Sassarita, buonasera. Ma come, ma mi senti, sì? Se ti sto rispondendo, vuol dire che ti sento. Te sono un po' basso. Mi senti basso? Sì. No, boh, lo so lui. Questa cosa è sempre così, no? Io non tocco mai niente. Non lo so, boh. Gianni mi sente bene, Natalia mi sente bene, non lo so. Mi arrivi il segnale 3. Cosa lui? Ho detto che mi arrivi il segnale 3. Addirittura, così basso. E di solito non so quanto ero a te. Sarato disturbato, non so che tu mi ascolti, se mi ascolti bene, boh. Ma tu non puoi segnare, tu arrivi a 7, boh, ti ascolto benissimo. Lu, ma tu per Porto Torres c'è qualche qualche problema a arrivare oppure arrivavi sempre? No, non ho problemi. Diciamo che sono un po' nascosto da Porto Torres. Adesso mi ricordo l'amico suo come si chiama. Mi arrivava 9, più di 9, io lo stesso. Ma qua arriva 9.5 Eugenio, e arriva bene anche di radio. C'è lo Smith generoso. Cosa? È lo Smith generoso. No, io c'ho uno Smith buono, a tutti i dini, io sto andando col Cambridge, non c'ho un baracchino. Guarda che io c'ho i segnali in 30 HMI, DX, Midlock, locale, se lo abbasso tutto, la regina sparisce. Penso un po', a te già, se metto locale, ti porta a Santiago 7, fate il conto, fate il conto, Smith. Ma cosa c'entra quello lì? Può essere la zona tua che sei nascosto in quella zona per Porto Torres e non arriva bene per quello. Cosa c'entra? Mica il mio Smither. Io sono il tuo generoso, cosa c'entra? A me il Porto Torres con preferenza arriva a Santiago 2, le cose che l'ascolto, lui ascolta a me, poi passa, capito? Sto usando anche un apparato che sì, pare che posso pretendere. Senta, con l'altro ho un paio di maniche. Poi l'altro io lo sento un po' male già, tutto guardatoloso. Sono usato lo sciure, Luca. Forse pensiamo a stare un po'. Ma se ci trovo fuori con la radio. No, lui è con la Ferrari, deve farla andare a 1000. Aspetta, mettiamo così, va bene così. No, mi piace Doni, è bruttissima questa radio. Dai, così va bene, dai. Prova. 1, 2, 3, prova. È migliorato, ma ti ho ascoltato meglio altre volte. Vabbè, devo riattaccare un altro apparato, fare di nuovo gli attacchi, non mi fa. Adesso lo lascio qua su 23. Prova Eugenio. 1, 2, 3, amico mio Luca, i sassari. Arrivi un po' disturbato. 3, segnale 3, radio 2, 2, 3. Arrivi disturbato. Arrivo disturbato, Arte, non so cosa dirti. Gianni si ammove. Modulati sali. Quando moduli sali. Vabbè, io sono agganciato, guarda se cala, Beh, guarda se mi senti basso adesso. È aumentato un po', Cosa hai toccato? Adesso l'ho staccato, mi senti più basso? No, ti sento più forte. Cioè, il segnale è più forte. Sono staccato, va, qui staccato. E così attaccato, vai. Ma io ti sento meglio quando stacchi. Non lo so. Capito. Quando sei liscio ti sento meglio. Guarda che non ci sia qualche cosa nello spezzone, Luca, per essere vado perfetto, sia quando è liscio, quando attacchi, si vede che aumenti, la rete sempre ottima. No, già, mi avevo dato errore qua, no, è a posto, non c'è niente nello spezzone. Io sono col portatile, oggi, mi senti lo stesso? Sì che ti sento. Ti sento. Andà bene allora, dai. Tutto bene, e tu mi arrivi 8 a picchi di 9, già andà bene, dai. Ok, dai, continuate che io devo andare a... Vi stavo ascoltando. Devo andare a... in cucina, devo andare, ok. Sì, devo girare i fagioli, quicks. Ja, ok. Cava. E vabbè, comunque... Ho fatto questa comparazione per vedere se dipendeva da me o se dipendeva da lui. Il segnale è uguale sia il mio che il tuo, gli apparecchi sono uguali, per cui Eugè, 2 più 2 fa 4. Sì, vabbè, ma il segnale uno da una posizione, uno dall'altra, non è che puoi fare il paragone. Magari per la sua zona sono coperto e per te sono un po' più aperto e mi riceve meglio. Fate così, ma lui diceva che era generoso il mio smitter, non è generoso il mio smitter è giusto. E vabbè, la smitter e smitter cambiano, e l'importante è sentirsi già. Sì, ma infatti non è quello lì il problema. Non è certo quello. Interessante che ci sentiamo, che ci sentiamo bene, pure. Tutto il resto è noia. Ma è Luca, mi siete basso, strano, boh. Ci sei. No, Luca, attaccato arriva a 7. Ok? Attaccato arriva a 7 e mezzo. E allora non sta dando lineare. Luca, o Luca? Dovrebbe controllare se AM, FM, se l'ha messo in FI, se l'ha messo in SSB magari per sbaglio. No, io sono in AM già. No, sta a posto qua, mi accorgo non va male l'apparecchio. Adesso sei a 7, giusto? Cioè adesso sei allacciato. Cosa oggi? Adesso sei allacciato, giusto? Sì, qua sono agganciato. Adesso sono sganciato. E infatti mi sago anche le stazionarie, vedi? Poco mi sago, non to. Allora, agganciato e sganciato. Sì, agganciato, arrivi a 7, poi sganci e non mi aumenta il segnale. Non mi fa segnare, a 7 e mezzo fissi, poi moduli a stare quasi a 9. La radio è buona? Sì, la radio è buonissima. Ok, è buono, non lo so. Non lo saccio. No, riprendi già un attimo, devo andare in cucina, ma devo da mangiare il cane, dai. Sì. Io ancora non gli ho fatto nulla. Più tardi, quando torniamo da passeggio. Che ore sono? Le 7? 7:05. Ciao. Quindi ci sono un bel po' in radio, lo potete dire che non sono in troppo. Cava. Natali, secondo me sta facendo già l'attacco. Oh yeah, magari tu la vedi in radio. Ehi, sta facendo l'attacco per il microfono, le 20:60, sta facendo la prumava. E comunque tu cosa c'hai? Anche l'antenna del VHF Marino lì a casa o... Sì, ho anche l'antenna del VHF Marino. C'ho anche il VHF quello fisso, vai, il fisso. Ah, ecco, capito, stazione base. Quello lì tu lo tieni sempre acceso, no? E quando sto lavorando sì. Quando non sto lavorando no. Ah, beh, diritto. Sono stato di più di sentire le navi. Cappaga. Ma voi, vabbè, tu non sei in mare, quindi non c'è problema. Solo quando arrivano le navi devi andare. Io l'altra volta ti ho chiamato, perché mia figlia doveva arrivare alle 5 con la nave e volevo sapere dove attraccava. Ti ho chiamato la sera prima ma non mi ha risposto. Poi ho chiamato a Coso, a Poldo, a Tulipano e non mi ha risposto mai quello. Ho detto ma a Bocciudoro non mi volevi abitare. Hai chiamato per radio? No, ti ho chiamato su Messenger col telefono. Ma non mi è arrivato niente. Ma non mi è arrivato niente, se non ti avrei richiamato. No, ce l'ho la chiamata inoltrata, c'è scritto chiamata inoltrata. E probabilmente non l'hai sentito, stavi lavorando, che ne so. Perché mia figlia doveva venire in aereo.